dimora come si mo. Oh, oh, oh, oh, non dimora come si mo. A dimmi dove è la china, o matagliola. A dimmi dove è la china, o matagliola. E se la bippa la grappa, patra meu. Si la mi pa la crapa, patra mea. A dimmi dove è la crapa, matagliola. A dimmi dove è la crapa, matagliola. Ho, oh, oh, ho, a casi vuole a matarita. Ho, oh, oh, ho, si vuole a materità. Sin dagli un telo bosco, patra mea. Sin dagli un telo bosco, patra mea. Oh, oh, non dimora come si mo. Oh, oh, oh, ma non dimora come si mo. A dimmi dove la nivi, o matagliola. A dimmi dove la nivi, o matagliola. E se la squaggia lo suli, patra meu. A se la squaggia lo suli, patra meu. Patra mea.